vedere la mangia e la mia. Si vede di domanda, ma ha di fica e la mia. C'è un sedo cale, i bandone e si vede. Un po' la maria, un po' la riela. Passa mai tonno un colette in fendo. In cotte vile in gale, con l'ame il pohado. Itzi per il colvo, mangia cal gorinda. Itzi con me, pevecco. Un pelloro, yao. Colette in ama, se un matem. Thank you.